La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori, siamo in diretta 16:30 primi, 31 primi tra un secondo, qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, la versione di Oscar in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Se volete chiamare, ora vi dirò di cosa parliamo oggi, il numero lo sapete, ma ve lo ricordo, 800 24 00 24. Per gli sms 349 238 6666. Oggi non è una trasmissione di quelle chieste con le vostre lettere. Tra l'altro, inciso, non immaginavo che la trasmissione dedicata ai magistrati onorari provocasse un mucchio di, per me, utilissime. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto, ho provato a rispondere quasi a tutti, lo farò entro domani, finirò la lunga lista di coloro che sono intervenuti sui temi della magistratura onoraria. Non solo ci hanno scritto molti magistrati onorari, giudici di pace o procuratori onorari, ma ci hanno scritto anche altre parti nel processo, e ringrazio in particolare alcuni, per esempio responsabili della polizia locale, che mi hanno dato molti elementi che ci sarebbero stati utili in trasmissione, quindi deficienza mia, lo ammetto, di fronte al fatto che molti di coloro che scrivevano su questo tema ci raccontavano esperienze per le quali i magistrati onorari, quando si tratta di pronunciare sentenze sul codice della strada, in realtà vanno molto a naso e molto dalla parte del contravventore. Sarebbe stato utile se aveste potuto telefonare, io non ne avevo esperienza, ma ringrazio tutti per questi elementi, io imparo ogni giorno da voi tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? Di uno sviluppo quotidiano di una vicenda grande come una casa, che riguarda le Ferrovie dello Stato. Lo sviluppo quotidiano, e che, come forse alcuni che seguono le vicende societarie delle società pubbliche avevano capito, si è arrivati alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato, lo ricordo, è la holding 100% pubblica, che sotto di sé ha sia l'infrastruttura, i binari, e non solo i binari ovviamente, i binari, la parte elettrica e così via, l'infrastruttura ferroviaria, che fa capo a RFI, cioè la rete Ferrovie Italiane, sia l'offerta di servizio di trasporto passeggeri e merci, e quindi Trenitalia Italia e Ferrovie Cargo. Si è arrivati alle dimissioni questa mattina, e sono dimissioni volute, anzi imposte dal governo. Il fatto è che questo Consiglio di Amministrazione era già stato nominato dall'attuale governo, e dopo un anno e mezzo, dopo aver annunciato oramai da quasi un anno l'arrivo in borsa di Ferrovie dello Stato, il governo ha dovuto prendere atto che i vertici che aveva nominato, cioè il presidente Messori, che io stimo molto, e l'amministratore delegato Elia, un uomo di Moretti, non riuscivano a mettersi minimamente d'accordo su come portare alla quotazione questo colosso pubblico. Perché? Perché si contrapponevano due visioni molto diverse. Mentre Messori era per scorporare in maniera molto netta la rete ferroviaria e e Trenitalia, e la parte di offerta aperta alla concorrenza, quella di Italo e così via, Elia era dell'idea di tenere assolutamente tutto così com'è per aumentare i proventi. Ma aumentare i proventi naturalmente non è una privatizzazione, si tratta di quotarne il 40% senza mai perderne il controllo. Come sappiamo, in Italia si chiamano privatizzazioni semplicemente degli appelli agli investimenti a risorse private sul mercato, che continuano a eternare il controllo pubblico delle aziende. Non si privatizza più da molti anni sul serio. Però c'era questa impostazione così radicale che il governo a un certo punto ha detto: signori, vi dimettete. Elia non si voleva dimettere, l'amministratore delegato, e quindi il governo ha ottenuto le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione. A questo punto decadono sia il presidente che l'amministratore delegato, bisogna procedere a nuove nomine. Il nome che gira per il nuovo capo azienda è un uomo che ha la testa di una controllata di Ferrovie dello Stato, Bus Italia, e che è lo stesso uomo che ha comprato l'azienda l'ATAF di Firenze quando era sindaco di Firenze Renzi, e che quindi fa uno scatto in avanti perché gode della fiducia personale del Presidente del Consiglio. Ma il punto di cui volevamo parlarvi oggi non è questo. bensì quello di spiegare dal punto di vista di chi amerebbe che una decisione simile fosse presa con chiarezza di idee da parte dell'azionista pubblico, cosa che evidentemente non è, visto che dopo un anno e mezzo nominati da questo stesso governo vengono mandati a casa da questo stesso governo, noi vorremmo chiarirvi alcuni punti che sono molto importanti e che hanno a che vedere esattamente su come e cosa si porta in borsa di questa azienda, da una parte, e dall'altra in presenza di quali interventi regolatori, per così dire. Perché in tutti questi anni chi, come il sottoscritto e altri, hanno sperato che avvenisse la liberalizzazione del trasporto ferroviario, si sono scontrati contro un muro. C'è stata la liberalizzazione nel senso di apertura alla concorrenza nel settore dell'alta velocità, il concorrente privato, cioè Italo, ha più volte fatto azione al regolatore di fronte alla resistenza assoluta oppostagli da Trenitalia e soprattutto opposta da Ferrovie dello Stato attraverso un accesso all'infrastruttura che Italo ha sempre considerato discriminatorio sia per gli slot sia per le stazioni, e tutto ciò ha dimostrato che nel nostro paese siamo ancora indietro su una vera apertura al mercato del trasporto ferroviario, anzi del complesso dell'offerta dei servizi ferroviari. Non c'è mica solo l'alta velocità, c'è il trasporto regionale, quello in cui milioni di italiani pendolari pagano un prezzo atroce al disservizio, c'è il trasporto delle merci. Il problema è che invece noi continuiamo a non vedere quello che altri paesi europei hanno fatto e continuiamo, altro problema, a buttare dalla finestra un pacco di miliardi alto così. Perché se non si liberalizza prima di quotare in borsa magari l'intera ferrovia dello Stato, che cosa si fa? Si fa appello al risparmio e investimenti privati e gli si consegna nelle mani la certezza di una rendita, quella che viene da molti miliardi di euro ogni anno di sussidi pubblici. Ecco, allora, è la maniera più giusta questo per affrontare il problema? La risposta dal nostro punto di vista è no, per questo bisognava decidere prima come fare e poi cosa portare in borsa. È passato un altro anno e mezzo, adesso vedremo quale sarà la direttiva impartita dal governo ai nuovi vertici aziendali, ma il problema resta. Allora vi do solo un paio di cifre. Prima di presentarvi l'ospite che ne sa molto più di me, noi in questi anni, quando dico noi intendo l'Istituto Bruno Leoni, con cui io collaboro e ho lì l'ufficio, abbiamo dedicato al trasporto ferroviario molte ricerche, molti paper, come in molti settori che non sono aperti alla concorrenza nel nostro paese, e voglio citarvene solo uno che fece molto arrabbiare Ferrovie dello Stato nell'ultimo periodo in cui c'era Moretti, che è uscito nel 2014, in cui appunto il nostro ospite analizzò in maniera sistematica quello che era avvenuto per i sussidi dati a Ferrovie dello Stato da parte dello Stato nei vent'anni successivi alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azione, cioè dal 1992 al 2012. Scusate, purtroppo resto influenzato. Allora, in questi 20 anni la complicata ricostruzione, perché nei bilanci non è molto esplicito, anzi non lo è per niente, del totale della spesa ferroviaria italiana e del totale dei sussidi corrisposti dal governo, quindi o a debito o con la fiscalità generale pagata dai contribuenti ogni anno, portò a una conclusione abbastanza amara. Perché in quei vent'anni alle nostre spalle il confronto con gli altri maggiori paesi europei, cioè con la Francia, con la Germania, con la Gran Bretagna, portò alla conclusione che il sussidio erogato alle Ferrovie dello Stato fosse in quei vent'anni doppio rispetto allo standard medio europeo. Capite che un sussidio in diminuzione a dire la verità, negli ultimi anni, quindi passato da quasi 10 miliardi di euro l'anno verso i 5 qualche cosa miliardi, che però indicava con chiarezza che una percentuale molto elevata della spesa pubblica ferroviaria in quei 20 anni avrebbe potuto essere stata risparmiata se si fossero fatte scelte di erogazione dei servizi, cioè regole nell'organizzazione della prestazione e offerta dei servizi, simili a quelle degli altri paesi, che non sono tutte uguali, come ovvio, perché ci sono paesi come la Gran Bretagna che hanno privatizzato e liberalizzato tutto, sia l'offerta di servizi di trasporto e commerciali, sia l'infrastruttura, poi hanno dovuto riprendere l'infrastruttura. Ci sono altri paesi, la Svezia, che hanno da una parte fatto un'apertura totale del mercato, cioè ci sono gare a cui possono partecipare tutti tranne che per quei segmenti del mercato che continuano ad avere per le caratteristiche dell'offerta il sussidio pubblico, ma altrimenti si fa gare per tutto, e hanno lasciato anche soggetti pubblici ma spezzando i vecchi monopolisti. Quindi ci sono tanti diversi modelli a cui guardare, ma i numeri della spesa ferroviaria italiana e dei sussidi pubblici dati a Ferrovie, che se noi la quotiamo così com'è consegneremo nelle mani dei privati in cambio del fatto che i privati non pretendano di gestire Ferrovie dello Stato, ecco, di questo bene in Italia non si riflette mai. Allora, per capire meglio che cosa ci possiamo aspettare se queste due partite A. si quota tutto insieme o si spartisce? B. si liberalizza e si diminuiscono i sussidi? E come si fa per fare questo? Ma se queste due partite non vengono affrontate, che cosa ci possiamo aspettare da una quotazione, visto che i precedenti sono di un governo che non riesce a spiegarla nemmeno a chi ha messo alla testa per un anno e mezzo le Ferrovie dello Stato? Queste domande al nostro ospite, che di economia dei trasporti ne sa tantissimo, era uno degli autori di quel paper che vi ho ricordato che fece arrabbiare Ferrovie dello Stato, che poi ci spiegò come qualmente secondo lei i sussidi erano un po' più bassi, un po', ma non troppo, ed è il professor Ugo Arrigo, che insegna scienze delle finanze e finanza pubblica alla Bicocca. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professore. Buon pomeriggio. Allora, proviamo a parlare di ferrovie. Sì, ci troviamo a parlare di ferrovie. Allora, lei ha capito e ne sa di più, perché è anche un po' un insider di queste questioni, su che cosa ha portato alla dimissione del CDA, visto che l'amministratore delegato non si voleva dimettere e il presidente invece aveva una sua visione, bisognava separare nettamente rete e offerta dei servizi. Ah, dunque lì diciamo, erano presenti due visioni molto antitetiche sul che cosa fare delle ferrovie, quindi la visione Nessori su un riordino societario e su una privatizzazione solo di una parte della società, rete esclusa, ma con una serie di passaggi intermedi molto, molto complessi, e l'altra parte, sull'altro versante, l'idea di Elia, insomma, di privatizzare l'azienda così com'è, di quotarla, non di privatizzare, quindi di quotarla, sì, perché ormai è entrato nell'uso la parola privatizzazione, ma insomma io l'ho anche detto in qualche occasione che in Italia la privatizzazione è il proseguimento della proprietà pubblica con altri mezzi, insomma con i mezzi degli dei sottoscrittori privati. Beh, sì. In realtà si tratta di quotazione, lo Stato non cede alcunché sul controllo aziendale, chi entra non ha nessuna possibilità di incidere sulla gestione. Però la quotazione può essere comunque un aiuto a una gestione in linea col mercato. Che insomma, porta degli obblighi su come si fanno i bilanci, almeno, ecco. Sì, insomma, relazioni trimestrali, insomma, una maggiore trasparenza rispetto a una gestione con azionista totalmente pubblico. Quindi, diciamo, chi è a favore del mercato e delle liberalizzazioni di fronte a una ipotesi di quotazione con vendita parziale non è pienamente soddisfatto, però può essere un primo passo di un qualcosa di più complesso. Mi pare che con le dichiarazioni di Del Rio dei giorni scorsi forse il governo si sta chiarendo un pochino le idee su che cosa è meglio fare, e quindi mi pare che si vada verso una quotazione scorporando la rete prima e tenendola totalmente pubblica. Se andiamo, secondo me è corretto. Ma ricostruiamo un secondo dal suo punto di vista come mai in Italia, che sembrava nel 97 con la direttiva Prodi, dover imboccare una strada regolatoria simile a quella di seguita in altri paesi per liberalizzare e spezzare il sussidio incrociato, che in realtà continua ad andare a Ferrovie dello Stato in quanto tale, senza distinguere per tipi di attività e di offerta di servizi svolti. Come mai poi invece le scelte che sembravano tutte scritte in quella direttiva negli anni successivi si sono tutte fermate? Ma diciamo che noi in Italia sostanzialmente riusciamo talvolta a fare delle riforme un po' per sbaglio, perché si aprono delle finestre, quindi ci inseriamo dentro e riusciamo a fare delle cose, a portarci avanti, e poi però esistono poi le forze della reazione, se vogliamo, che riescono a chiudere quegli spiragli che si aprono. Nel 96, no, a metà anni 90 c'erano le idee molto chiare sulle riforme delle ferrovie e dei trasporti in generale, e quindi le tre linee d'azione, che poi erano in realtà ispirate agli altri paesi europei più avanzati, erano quelle del regolatore indipendente, che però allora non fu neanche istituita, si cercò di istituirlo nel 95 sino all'autorità per l'energia, ma come sappiamo il regolatore è arrivato solo 2 anni fa, e quindi 17 anni dopo, l'idea delle gare per i sussidi, e quindi laddove c'è bisogno di sussidi pubblici perché il consumatore non ha una sufficiente capacità, disponibilità a pagare i costi del servizio che utilizza, si fanno le gare, quindi si assegna il servizio a chi è in grado di produrlo con i costi più ridotti. E poi la parte più cruciale era quella della separazione della rete ferroviaria rispetto ai servizi di trasporto, e cercando di capire tra i servizi di trasporto quali potevano stare sul mercato in maniera indipendente senza utilizzare sovvenzioni e quali no. E quindi la direttiva proprio del 97, che io seguii ai tempi come consulente esperto presso la Presidenza del Consiglio, faceva queste cose qui. Ai tempi non si poteva parlare di privatizzazione perché era assolutamente precoce, l'azienda aveva disavanzo di bilancio consistente, però l'idea era la separazione della rete, la gestione indipendente della rete e poi una serie di forme di azioni sui servizi differenziate per tipologia di traffico, di segmento, e quindi i passeggeri a lunga distanza sarebbero quelli che oggi sono divenute le frecce, rispetto al trasporto passeggeri regionale e locale, infine il trasporto merci. Allora, adesso abbiamo aspetti un secondo, la interrompo perché abbiamo 1 minuto di informazione sulle strade e poi riprendiamo, le ridò la parola. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Stiamo parlando di quello che ci aspetta dopo le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato oggi, chieste e ottenute, imposte dal governo, un Consiglio di Amministrazione che lui stesso ha nominato per portare in borsa Ferrovie dello Stato, ma di fronte allo scontro tra Presidente e Presidente Delegato su cosa voleva dire portare in borsa Ferrovie dello Stato. Bisognava separare e scindere nettamente l'infrastruttura dall'offerta dei servizi, il Presidente diceva di sì, l'amministratore delegato Elia Morettiano diceva assolutamente no, bisogna massimizzare l'introito e lasciare tutto così com'è. Ecco, di fatto però, anche se bisogna dirlo, Moretti oggi sta a Finmeccanica, dice io ho risanato le ferrovie, è vero che ha riorganizzato aziendalmente, migliorato l'efficienza del bilancio, tutto quello che bisogna rendergli atto a Moretti di aver fatto tutte queste cose. Detto questo, abbiamo visto che un esame retrospettiva di quanto ogni anno lo Stato ci ha dovuto mettere, cioè la spesa pubblica ferroviaria dell'Italia nei 20 anni alle nostre spalle, abbiamo una cifra spaventosa, oltre 207 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di quasi 10 miliardi di euro l'anno, e questi sono sussidi in parte in conto esercizio, in parte in conto capitale, ma se andiamo a vedere, se fossero stati finanziati tutti a debito, significherebbe che dello stock di debito pubblico attuale quasi il 18% viene solo da questa roba delle ferrovie, per essere chiari, cioè stiamo parlando di un enorme problema italiano. Come mai abbiamo speso tutti questi soldi in più, visto che nello stesso arco temporale, ripeto, rispetto ai nostri 208 miliardi, la spesa ferroviaria francese è stata di 153 miliardi, con la differenza però che il settore ferroviario francese è il doppio di quello italiano per dimensioni. Allora, riprendiamo da quello che ci stava dicendo il professor Ugo Arrigo. Lo schema sembrava chiaro a fine anni 90, poi in realtà si è bloccato, ma si è bloccato anche perché poi Moretti è stato bravo a migliorare l'efficienza e l'organizzazione. Lui trovò ferrovie che era ancora organizzata in compartimenti come la vecchia Enel, gli diede invece molta più efficienza, e quindi la politica a questo punto cambiò idea? Ma lui è stato molto bravo nella gestione, quindi è riuscito in pochi anni a riordinare la gestione, a contenere i costi, di questo gli va dato atto. Nello stesso tempo è stato anche altrettanto bravo a farsi dare più trasferimenti dal settore pubblico, devo dire prevalentemente per investimenti e non per gestione corrente. Però sostanzialmente, di fronte alla gestione Moretti e alla sua capacità di rimettere in ordine i conti aziendali, sostanzialmente i governi non sono stati a mettere troppo a indagare o insomma a lesinare risorse, quindi hanno dato le risorse che lui chiedeva. Ho capito. A questo punto, che cosa si aspetta lei? Che vinca la tesi della separazione netta e che portino in borsa solo Trenitalia, oppure no? Io me lo auguro, perché è la soluzione ovviamente per me, per chi l'ha studiata in questi anni, insomma, siamo tutti concordi sul fatto che sia la soluzione migliore, però è anche probabilmente l'unica soluzione praticabile. Cioè, se noi cerchiamo di quotare tutto il gruppo con la rete di Intro, la rete ha un capitale investito altissimo, superiore attorno ai 35 miliardi, forse si avvicina ai 40 miliardi, con una redditività che è molto bassa, e quindi la rete zavorra la redditività dell'azienda, la rende sconsigliabile per qualsiasi sottoscrittore di azioni che sia interessato, ovviamente, che non sia un benefattore delle ferrovie, non sia interessato ad avere poi un dividendo. Mentre invece la profittabilità della sola parte servizi ferroviari può diventare interessante. Quindi siccome il governo è molto interessato a portare avanti la privatizzazione nei tempi che ha annunciato all'Unione Europea, rapidissimi, sì, perché il primo semestre secondo me obbliga alla separazione. E cosa possiamo sperare del miglioramento dell'assetto regolatorio concorrenziale in concomitanza, se va avanti su questa prospettiva che lei ci ha indicato? Ma inevitabilmente poi si dovrà anche riordinare quello, anche se sarebbe stato preferibile farlo prima. Esatto. Cioè, i paesi europei che hanno deciso a un certo punto di liberalizzare il mercato, e quelli più, diciamo così, più avanti sono sicuramente la Svezia e la Gran Bretagna, prima hanno riscritto le regole e poi, e quindi hanno detto che tutti potevano entrare, a quali condizioni si poteva entrare, a quali condizioni si potevano chiedere sovvenzioni, sussidi pubblici, poi hanno lasciato che gli attori entrassero sul mercato, e tra le regole dell'ingresso degli attori sul mercato hanno istituito un arbitro indipendente. Esatto. Cioè, sul terreno da gioco arrivano più squadre che si disputano la gara, allora deve esserci un arbitro che deve essere neutrale. Allora, vedremo se il governo ci riserva queste sorprese, in assenza delle quali, guardate che diventerà una scusa non liberalizzare, quella di non far cadere il titolo, perché se li quotiamo in assenza di liberalizzazione Trenitalia preventive, si dirà: ah, a quel punto il titolo scende, e quindi, ohimè, lo Stato ci rimette. Orrenda cosa, se non abbiamo imparato dalle privatizzazioni malfatte che prima bisogna fare le regole e poi portare in borsa, non abbiamo capito niente. Non è colpa del mercato, è colpa dei pessimi azionisti pubblici, cari ascoltatori. Continuate sulla 24, appuntamento all'8:15 domani mattina con Alessandro Milan. Attenti a noi due.